Ma dei rumori ci sono anche soppressioni di natura non momentanea. Chi è diventato completamente sordo non può nemmeno far scaldare sul proprio tavolo un po' di latte in un bollitore senza essere costretto a spiare con gli occhi, sul coperchio sollevato, il riflesso bianco, iperboreo, simile a quello d'una tempesta di neve, che il segno premonitore cui converrà obbedire, togliendo, come il signore che arresta le onde, la spina dalla presa elettrica. Già l'uovo ascendente spasmodico del latte in ebollizione accenna a lievitare in una serie di sollevamenti obliqui, si gonfia, arrotonda alcune vele semicapovolte, increspate dalla crema, una delle quali, madreperlacea, affronta la burrasca, e che l'interruzione della corrente, se il fortunale elettrico è scongiurato a tempo, farà roteare tutte su se stesse e getterà la deriva mutate in petali di magnolia. Ma se il malato non avrà preso con sufficiente rapidità le precauzioni necessarie, ben presto i suoi libri e il suo orologio emergeranno appena, travolti dal maremoto latteo, in una gran distesa bianca, e gli toccherà chiamare in aiuto la vecchia governante, la quale, foss'egli anche un uomo politico illustre o un grande scrittore, proclamerà che non ha più giudizio di un bambino di 5 anni. Altre volte, nella camera magica, una persona che un momento prima non c'era è apparsa davanti alla porta chiusa. È un visitatore che non abbiamo sentito entrare e che fa solo dei gesti, come in uno di quei teatrini di marionette che sono tanto riposanti per chi ha preso in uggia il linguaggio parlato. E siccome, perdendo un senso, si aggiunge al mondo tanta più bellezza che acquistandone uno, e con delizia che quest'uomo completamente sordo si aggira adesso in una terra quasi edenica, dove il suono non è stato ancora creato. Le più vertiginose cascate vi spiegano per i suoi occhi, e per essi soltanto, la loro tovaglia di cristallo, più calme del mare immobile, pure come cateratte del paradiso. Poiché per lui, prima della sordità, il rumore era la forma percettibile della causa di un movimento, è come se gli oggetti che, a spostarli, non fanno rumore, venissero spostati senza causa. Spogliati di ogni qualità sonora, esibiscono un'attività spontanea, sembrano vivi, si muovono, si mobilizzano, prendono fuoco per proprio conto. Per proprio conto volano via, come i mostri alati della preistoria. Nella casa del sordo, solitaria e senza vicini, il servizio, che prima del definitivo aggravarsi della malattia si svolgeva già con particolare cautela, silenziosamente, è assicurato adesso, con un che di furtivo, da servitori muti, come nella dimora del re in uno spettacolo fiabesco. E, sempre come a teatro, il monumento che il sordo vede dalla finestra, caserma, chiesa, municipio, è un semplice fondale. Se un giorno dovesse crollare, potrebbe sollevare una nuvola di polvere e produrre delle macerie visibili. Ma, meno materiale persino di un palazzo di teatro, pur non essendo altrettanto piatto, crollerà nell'universo magico senza che la caduta delle sue pesanti pietre da taglio offuschi, con la volgarità del sia pur minimo rumore, la castità del silenzio. Quello, ben più relativo, che regnava nel piccolo alloggio militare in cui mi trovavo da qualche istante, fu infranto. La porta venne spalancata e Saint Loup entrò di furia, lasciando cadere il monocolo. «Ah, Robert!» gli dissi. «Come si sta bene qui da voi! Come sarebbe bello se potessi pranzare e dormire qui!» E, in effetti, se non fosse stato proibito, che riposo senza tristezza avrei assaporato là dentro, protetto da quell'atmosfera di tranquillità, di vigilanza ed allegria che vi mantenevano 1000 volontà regolate e prive di inquietudini, 1000 teste spensierate in seno a quella grande comunità che è una caserma, dove, poiché il tempo ha assunto la forma dell'azione, al triste rintocco delle ore si sostituisce la stessa gioiosa fanfara di quegli appelli il cui ricordo sonoro aleggiava in perpetua sospensione, sminuzzato e pulverulento, sui lastricati della città, voce sicura di essere ascoltata e musicale, dal momento che non era soltanto il richiamo all'obbedienza da parte dell'autorità, ma anche il richiamo alla felicità da parte della saggezza. «Ah, così preferireste restare a dormire qui da me piuttosto che andarvene da solo in albergo», disse Saint Loup ridendo. «Oh, Robert!» esclamai. «È crudele da parte vostra fare dell'ironia sapendo che non è possibile che in albergo starò tanto male». «Ebbene, voi mi lusingate», replicò Saint Loup, «perché ho avuto anch'io esattamente la stessa idea, che avreste preferito stanotte rimanere qui, ed è proprio questo che ero andato a chiedere al capitano». «E lui vi ha dato il permesso?» esclamai. «Senza la minima difficoltà». «Oh, che uomo adorabile!» «Via, non esageriamo. Adesso lasciatemi chiamare il mio attendente perché si occupi del pranzo», aggiunse, mentre io voltavo la testa per nascondere le lacrime. A varie riprese entrarono alcuni commilitoni di Saint Loup. Lui li metteva alla porta. «Svelti, fuori dai piedi!» Avrei voluto che li facesse restare. «Ma no, vi annoierebbero a morte. Sono di un'ignoranza crassa. Non sanno parlare d'altro che di corse e di cavalli. E poi anche per me mi rovinerebbero questi attimi tanto preziosi e sospirati. Intendiamoci, se parlo della mediocrità dei miei colleghi, non è perché tutta l'esperienza militare sia priva di dignità intellettuale. Niente affatto. Il comandante è un uomo straordinario. Ha tenuto un corso in cui la storia militare era trattata come una specie di algebra, come la dimostrazione di un teorema. Anche dal punto di vista estetico è qualche cosa di una bellezza volta a volta induttiva e deduttiva che non vi lascerebbe indifferente». «E lui, quel capitano che mi ha concesso di restare qui?» «No, grazie a Dio. L'uomo che trovate adorabile per così poco è il più emerito imbecille che sia mai apparso sulla faccia della terra. È perfetto per occuparsi di ordinaria amministrazione e delle divise dei suoi uomini. Passa ore intere in compagnia del maresciallo d'alloggio e del caposarto. La sua mentalità è questa. E poi, come tutti, nutre il più profondo disprezzo per lo straordinario comandante di cui vi parlavo, un uomo che nessuno frequenta perché è massone e non va a confessarsi. Il principe di Borodino non riceverebbe mai in casa sua quel piccolo borghese, il che, siamo sinceri, implica una bella faccia tosta da parte di uno il cui bisnonno era un piccolo fittavolo e che senza le guerre napoleoniche probabilmente lo sarebbe a sua volta. Lui stesso, del resto, non è che non si renda conto della posizione né carne né pesce che occupa in società. Frequenta pochissimo il jockey, tanto vi si trova a disagio, il nostro preteso principe», concluse Robert, il quale, sollecitato da un identico spirito di imitazione ad adottare le teorie sociali dei suoi maestri e i pregiudizi mondani dei suoi parenti, coniugava, senza rendersene conto, l'amore per la democrazia con il disprezzo per la nobiltà dell'impero. Io guardavo la fotografia di sua zia e il pensiero che quell'immagine da lui posseduta, se Loup avrebbe forse potuto regalarmela, me lo rese ancora più caro e mi fece desiderare di dedicargli mille premure che mi sarebbero parse, peraltro, un compenso irrisorio. Quella fotografia, infatti, era come un incontro supplementare, un incontro in più con Madame de Guermantes. Meglio ancora, un incontro prolungato, come se grazie a un repentino progresso dei nostri rapporti si fosse soffermata accanto a me, con in testa un semplice cappello da giardino, e per la prima volta m'avesse lasciato contemplare a mio agio la pienezza della guancia, la curva della nuca, la punta delle sopracciglia, velate per me sino a quel momento dalla rapidità dei suoi passaggi, dalla storditaggine delle mie impressioni, dall'evanescenza dei ricordi. E quella contemplazione, paragonabile allo svelamento del seno e delle braccia di una donna che io non avessi mai vista se non in abiti accollati, era per me una scoperta voluttuosa, l'ottenimento di un favore. Quelle linee che mi sembrava quasi proibito guardare. Avrei potuto studiarle come in un trattato dell'unica geometria che avesse valore ai miei occhi. Più tardi, osservando Robert, m'accorsi che era un po' lui stesso una fotografia di sua zia, e in virtù di un mistero che, per me, era quasi altrettanto commovente, giacché, se il volto del mio amico non derivava direttamente dal volto della duchessa, entrambi derivavano, in ogni caso, da un antecedente comune. I lineamenti di Madame de Guermantes, appuntati nella mia visione di Combray, il naso a becco di falco, gli occhi penetranti, sembrava fossero serviti a ritagliare, in un altro esemplare analogo ma assottigliato dalla pelle troppo fine, anche la fisionomia di Robert, che era quasi sovrapponibile a quella di sua zia. Scrutavo avidamente in lui i tratti caratteristici dei Guermantes, questa razza rimasta così isolata in mezzo a tutti gli altri esseri umani, fra i quali non si disperde, isolata nella sua gloria divinamente ornitologica, giacché sembra aver avuto origine, nell'età dei miti, dall'accoppiamento di una dea con un uccello. Robert, pur ignorandone le cause, era toccato dalla mia commozione, la quale peraltro era cresciuta dal benessere provocato dal calore del fuoco e dal vino di champagne che faceva spuntare in pari tempo gocce di sudore sulla mia fronte e lacrime nei miei occhi. Serviva quel vino ad annaffiare dei perniciotti che io mangiavo con la meraviglia di un profano di una qualsiasi specie, il quale trovi, in una certa vita da lui non conosciuta prima, una cosa che credeva dovesse esserne esclusa, la meraviglia, per esempio, di un libero pensatore che consumi un pasto squisito in una canonica. E la mattina successiva, svegliandomi, andai a gettare dalla finestra di Saint-Loup, che essendo molto in alto dominava tutto il circondario, uno sguardo incuriosito per fare conoscenza con una vicina, la campagna, che il giorno prima non avevo potuto vedere perché ero arrivato troppo tardi, quando ormai giaceva addormentata nella notte. Ma, per quanto si fosse svegliata di buon'ora, io la vidi, come da una finestra di un castello che s'affacci sullo stagno, imbacuccata ancora nella sua dolce bianca vestaglia di nebbia mattutina, che mi lasciava scorgere ben poco. Sapevo però che, prima che i soldati addetti ai cavalli avessero finito in cortile di strigliarli, lei se la sarebbe tolta. Nell'attesa non mi era dato di vedere altro che una magra collina, la cui schiena gracile e rugosa, già spoglia d'ombra, era proprio a ridosso della caserma. Attraverso le tendine traforate di brina, i miei occhi non perdevano di vista quella straniera che per la prima volta ricambiava il mio sguardo. Ma quando venire in caserma diventò per me un'abitudine, la consapevolezza che la collina era lì, più reale, dunque, anche se non la vedevo, dell'albergo di Balbec o della nostra casa di Parigi, cui pensavo come a degli assenti, come a dei morti, cioè senza quasi più credere alla loro esistenza, fece sì che, sia pure impercettibilmente, il riflesso del suo profilo partecipasse ad ogni minima impressione da me ricevuta a Doncier, e per cominciare da quella mattina della buona impressione di calore che mi diede la tazza di cioccolata preparatami dall'attendente di Saint-Loup in quella stanza confortevole che faceva pensare ad un osservatorio per sorvegliare la collina, a rendere impossibile l'idea di fare qualcosa d'altro che guardarla, per esempio andare a passeggiarvi, era la stessa nebbia che l'avvolgeva. Imbevendo la forma della collina, associandosi al gusto della cioccolata e all'intera trama dei miei pensieri, quella nebbia finì con l'intridere, senza che io ci facessi minimamente caso, tutto ciò che pensai in quel periodo, così come un certo oro massiccio e inalterabile era rimasto legato alle mie impressioni di Balbec, o come la vicinanza delle scale esterne di Arenaria Scura dava una tonalità grigiastra alle mie impressioni di Combray. La nebbia, d'altronde, non ristagnò a lungo nel mattino. Il sole cominciò a combatterla con alcune frecce che dapprima, senza sconfiggerla, la guarnirono di brillanti e infine ne ebbero ragione. La collina poté allora offrire la sua groppa grigia ai raggi che un'ora più tardi, quando scese in città, conferivano i rossi delle foglie degli alberi, ai rossi e agli azzurri dei manifesti elettorali appiccicati ai muri, un risalto che eccitava anche me e mi faceva percorrere cantando i selciati sui quali dovevo impormi di non saltare dalla gioia.